nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24 che vi trasmette energia e contemporaneamente si batte perché questa energia non sia poi, diciamo, eccessivamente sprecata, come capita col multitasking, che ve lo ricordiamo ogni domenica, è la più grande fregatura inventata per farci sentire in colpa, farci fare 30 cose contemporaneamente e magari tutte male. A proposito, fa male anche al cervello, ve lo ricordiamo ogni domenica e lo dicono gli scienziati, i neuroscienziati dell'MIT. Qui a Nessuna Perfetta cerchiamo di sfatare i luoghi comuni, no? E uno dei luoghi comuni è che le donne siano più veloci, più rapide, più efficienti. Capita anche qui di far passare questo messaggio, ma siamo sufficientemente onesti e soprattutto intenzionatissimi a sfatare i luoghi comuni. E così quando capita che qualcuno ci faccia notare il contrario, noi non facciamo finta di niente, non ci giriamo dall'altra parte. Vi raccontiamo le storie come stanno. Per questo oggi cominciamo dalla lettera di un ascoltatore, perché la lettera che ci ha inviato Giulio mette proprio in luce il contrario di quello che tante volte abbiamo affermato, e che cioè le donne sono rapidissime, anche troppo, perché appunto fanno troppe cose, il multitasking le frega. Giulio espone in questa lettera un punto di vista diverso. Cara Maria, sono un tuo assiduo ascoltatore settantenne e ho deciso di approfittare della trasmissione Nessuna è Perfetta per segnalarti un aspetto femminile che da sempre mi indispettisce. Mi riferisco alle molte donne che sono agli sportelli delle banche, degli uffici postali e altri sportelli dello stesso genere, dove c'è un pubblico che dovrebbe essere accudito. Mi sono preso la briga di testare i tempi di smaltimento della clientela che frequenta questi luoghi. E posso dire, senza timore di smentita, che per quanto riguarda la produttività, lo smaltimento delle pratiche allo sportello, gli uomini battono le donne per un buon 30%. E devo aggiungere che non dipende assolutamente dalla bravura, anzi, talvolta le donne sono più accorte e precise degli impiegati uomini. A cosa è dovuto? È dovuto alla grande passione femminile per il dialogo. Tutte, e sottolineo tutte, si lasciano trasportare facilmente dalla discussione sui più disparati argomenti con le colleghe, con le utenti e in particolare con altre donne sui più vari argomenti. Ed io, che sono in fila per svolgere il compito dovuto, spero sempre che a sbrigare le pratiche delle persone che mi precedono sia un uomo. Chiaramente le mie riflessioni si riferiscono alle zone che frequento, principalmente la Campania e il Lazio. Non so se altrove le cose si svolgono allo stesso modo o meno. Caro Giulio, insomma, le impiegate agli sportelli, alle banche, negli uffici postali, eccetera, chiacchierano troppo, chiacchierano di varia umanità e fanno perdere tempo ai clienti che sono in fila. Sarà vero? Sarà falso? Donne che chiacchierano, che perdono tempo, che nei vari luoghi di lavoro, agli sportelli del banco posta, delle banche, negli uffici pubblici, si perdono in chiacchiere magari col cliente o con le colleghe e fanno fare lunghe e inutili code. È un punto di vista esattamente opposto all'idea di efficienza che spesso è emersa nelle nostre puntate di Nessuna è Perfetta, ma è il punto di vista del nostro ascoltatore Giulio Torre, che ci ha scritto una lunga lettera con la quale abbiamo cominciato questa puntata, e io sono proprio curiosa di sapere cosa pensa l'agente provocatore di questa domenica, Enzo Risso, direttore scientifico della società di ricerca SVG, docente di sociologia, autore di un saggio pubblicato da Guerini Editore, Con rabbia e speranza, il nuovo volto dell'Italia in cerca di riscatto. Allora, Risso, il punto di vista del nostro ascoltatore Giulio Torre mi trova, e lo devo riconoscere, abbastanza d'accordo, perché anch'io ho visto in tante occasioni le donne perdersi in un mare di chiacchiere. Da sociologo condividi o invece dissenti? Devo dire che l'esperienza comune poi di ognuno cambia a seconda dei momenti. Cioè, sicuramente l'universo maschile, nel momento in cui affronta un rapporto con uno sportello pubblico, è molto più razionalista e infastidito, quindi è ansioso di finire. L'universo femminile è molto più meticoloso, molto più attento e quindi anche molto più preciso, molto meno superficiale, quindi questo potrebbe portare di sbrigare una pratica, magari ci mette qualche minuto in più, però insomma è più una percezione anche molto maschile, che appena è entrato non vorrebbe già essere uscito, più che poi una reale differenza di tempo che si perde. Ecco, nel suo saggio Con rabbia e speranza, il nuovo volto dell'Italia in cerca di riscatto, emerge questo nuovo volto, per esempio una maggiore consapevolezza che la pubblica amministrazione è tenuta a offrire nei tempi congrui un servizio e non perdere tempo nell'inutilità delle chiacchiere, come lamenta il nostro ascoltatore Giulio Torri. Assolutamente sì, è una cosa che è richiesta con forza, è richiesta il fatto che la pubblica amministrazione sia sempre non solo più efficiente ma più attenta alle singole esigenze delle persone. E quindi la rabbia nasce anche nei confronti della pubblica amministrazione di vedere che sia un moloch complesso, pieno di regole, di ostacoli e non lineare e immediato nella capacità che di risposta. Che cosa ti ha colpito nel enunciare, fotografare il nuovo volto dell'Italia? Che cosa ti ha colpito? C'è una cosa che puoi raccontarci che ti ha colpito in maniera particolare? A me ha colpito il modo in cui si raccontano le persone in modo differente. Cioè, gli uomini, per esempio, cercano di raccontarsi come se fossero personalità sempre al passo coi tempi, sempre capaci di gestire il loro mondo in ogni istante, goderecce, e mentre le donne che continuano a raccontarsi come romantiche, come persone che sono meticolose e che sono l'esempio del tutto fare. Ecco, la capacità e la volontà delle persone di continuare a mantenere dei cliché, ma anche di trovarne alcune nuove. Quindi le donne si propongono come fiere dell'essere capaci di fare tante cose, sta tutto sulle mie spalle, quindi la mistica del multitasking che noi qui a Nessuno è Perfetta combattiamo come la massima fregatura, e invece gli uomini si propongono come quelli che sono al passo con le tecnologie, conoscono tutto quello che è il futuro, guardano il futuro, ma è proprio così? No, in realtà non è così. Però è interessante vedere proprio la rappresentazione che se ne fanno. Poi in realtà uomini e donne sono molto più simili di fronte alle cose di quello che poi loro stessi si raccontano. Sicuramente, per esempio, di fronte ai cambiamenti che sono in atto, la maggioranza delle persone poi è accomunata dalla paura di lasciare i propri figli, di lasciare una società che sia sempre più diseguale, sempre più iniqua e sempre più degradata. Questo poi è una cosa che invece li accomuna tutti, per esempio. L'ultima cosa che vorrei chiederti, Enzo Risso, con rabbia e speranza, la rabbia su che cosa è puntata, molto sinteticamente, e su che cosa si proietta invece la speranza? La rabbia è puntata sulle elite, che siano politiche o che siano imprenditoriali. La rabbia è puntata sui poteri forti, su quelli che sono accusati di aver in qualche modo rovinato il paese. La speranza è puntata sull'idea che in qualche modo il paese debba uscire, che le persone devono tornare a far politica, rimetterci la faccia per cambiare le cose. Quindi non affidarsi ai vari uomini della provvidenza, ma guardare a quello che ciascuno può dare. Grazie Enzo Risso, grazie al nostro agente provocatore. Vi ricordo il suo ultimo saggio, Con rabbia e speranza, il nuovo volto dell'Italia in cerca di riscatto. Grazie a voi. nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è Perfetta. Devo farvi una confidenza. Quando abbiamo immaginato questa puntata, che è ispirata chiaramente dalla lettera che vi ho letto, quella dell'ascoltatore Giulio Torre, secondo il quale quando si fa la fila agli uffici pubblici, lui l'ha monitorato addirittura in banca, nelle poste, eccetera, se ti capita un'impiegata donna hai più possibilità di perdere più tempo, perché è lei che a sua volta si perde in chiacchiere con le clienti in fila o con le sue colleghe. Ecco, quando abbiamo pensato di montare una puntata su questo e abbiamo pensato a una Sunday Girl, io ho detto: ma ci vuole una che è esattamente il contrario di quello che è l'oggetto dell'accusa del nostro ascoltatore. Ci vuole un sergente di ferro che non perde mai nemmeno un minuto. Indovinate chi è? Ma che sergente di ferro, è un generale di ferro la nostra Sunday Girl. Benvenuta Milly Carlucci, spero che non si offenda per la definizione di ferro. No, assolutamente, anche perché purtroppo in certi tipi di lavoro come il nostro, insomma, devi arrivare veramente al dunque, devi avere le idee chiare, molto concise e non perdere tempo, e devi avere quella... un po' quell'anima, quella struttura ferrea che ti consente di andare dritto all'obiettivo senza perderti neanche nei momenti di conforto, cioè non ti puoi concedere neanche quelli. Ecco, ma una come Milly Carlucci, che appunto passa da un programma all'altro tutte le giornate occupate, va mai alle poste a fare una coda? Oppure sei organizzata in modo che ci sia una persona che le fa per te? Allora, normalmente quando lavoro evidentemente non posso andare a fare la coda, no? È assolutamente impossibile. Quando non lavoro invece in banca, nei negozi, in farmacia, in posta, cioè nella vita ritorna ad essere normale, non è che poi uno viva in un limbo dorato. Chiaro che per esempio adesso che sono sotto debutto, le mie giornate sono 24 ore su 24, proprio concentrate sul lavoro, e allora devi organizzarti per qualche cosa con qualcuno che ti aiuti, perché sennò non ce la fai, no? La percezione che ha il nostro ascoltatore Torre, secondo il quale se capiti in una fila con un'impiegata donna ci metti di più, è una percezione che ti è capitato di avere anche nei tuoi casi? Assolutamente no, è veramente solo una questione personale, cioè è una questione di quanto, anche se, di chi sia il genere di persona, uomo o donna che sia, ci sono persone molto dispersive e persone molto concludenti invece, quindi non lo legherei assolutamente al genere, al sesso, no, questo mi permetto di dire al gentile ascoltatore che proprio ha preso una toppa in questo caso. Speriamo che ci voglia scrivere dopo aver monitorato e aver colto dei significativi cambiamenti. Ecco, accennavamo a questa fase importante, no? nella preparazione di una nuova avventura televisiva. Come funziona la giornata? Quanti minuti dedichi a tutto? Cioè, com'è la vita di una persona che è abituata a non perdersi in chiacchiere, e Milly Carlucci non si perde in chiacchiere? Guarda, in realtà come tutte le donne che lavorano, e per questo io contesto il fatto che una impiegata possa essere una che si perde in ciance, in genere noi abbiamo, ma anche come te immagino, noi abbiamo tre o quattro vite parallele che corrono su binari velocissimi, ad alta velocità, e tutte insieme, perché tu esci di casa e io esco di casa perché devo andare a lavorare, perché mi aspettano riunioni, prove. Magari... Dove fate le prove? Noi le prove le facciamo all'auditorium del Foro Italico, proprio vicino allo Stadio Olimpico. Quello è da 12 anni lo studio di Ballando con le Stelle, da sempre siamo stati lì. E vado lì la mattina e si comincia con la redazione, insomma, con tutte le riunioni degli autori, il montaggio, andare, insomma, noi siamo una specie di unità di lavoro, 5 piani di un edificio in cui c'è tutto, dalle sartorie alle sale prova, al teatro, alle redazioni e le salette del montaggio. Quindi si sta lì dentro per fare tutto. Ma mentre questo succede, adesso voglio dire, chi fa la spesa? Sì. Allora io faccio la spesa per telefono, ovviamente, sì. No? Chi paga appunto le bollette? Mi devo organizzare perché una persona vada a pagare le varie cose, si fa fare anche online, ma non ho il tempo materiale. Certo, quindi io di farlo, devi no? organizzare che qualcuno lo faccia per te. Sì, e devo organizzare che qualcuno lo faccia per me, ma poi voglio dire, la casa, la famiglia, i figli, tutto continua ad andare avanti. I tuoi figli vivono in Italia o sono all'estero? No, vivono a Londra. Quindi diciamo che avendoli grandi hai un lavoro in meno da fare, anche se mentalmente il lavoro di mamma non finisce mai. Beh, però i figli poi, mentre è complicatissimo farsi fare una telefonata per dire guarda, sto bene, non c'è problema di nessun genere, poi invece chiamano quando hanno bisogno di risolvere le cose loro. Allora dice, devo fare questo, mi mandi quest'altra cosa, mi cerchi questo. Certo. Quindi in realtà, sai com'è, insomma, rimani il loro punto di riferimento, certo. A 360 gradi. E quindi, e poi appunto, quindi c'è tutto quanto questo, poi nel mio caso ci sono per esempio papà, no? Cioè, certo. Cioè il resto della famiglia, cioè hai altre responsabilità. Tutto continua ad andare avanti mentre poi cascasse il mondo, tu alle 3 del pomeriggio sei in studio per le prove. E ne riesci, chissà, a mezzanotte forse stremata, finita, ma devi pensare a quello che succederà il giorno dopo, quindi davvero di tempo da perdere non ce n'è, ciance pochissime, non puoi occuparti. Il generale di ferro Milli Carlucci nelle prove esige la perfezione, e diciamo che sulla danza ci possono essere comprensibili incertezze, non tutti sono, no, dei ballerini esperti. Ma guarda, quest'anno nel nostro cast ci sono delle signore che stanno veramente facendo un percorso interessantissimo, perché da Giuliana Dessio ad Anna La Rosa, a che ne so, Anna Galliena, ma anche Simone Montedoro, tutte persone che di natura cercano la perfezione, perché sono abituati a stare davanti alla cinepresa piuttosto che alla telecamera, da protagonisti assoluti, da persone di conclamata professionalità. Quindi quando poi ti trovi a fare una cosa che non ti appartiene, hai prima lo smarrimento di dire oddio, che cosa succede, e poi la ricerca disperata, anche se non possibile in realtà in tempi brevi, no? di una performance che sia di un certo livello. Quindi sono loro stessi che esigono la perfezione da se stessi, anche se in realtà dovrebbero concedersi un po' più di prove d'appello, perché non è possibile, no? All'impronta, come fai? Senti, il film La La Land è il trionfo della leggerezza e di una grazia nella danza che è raro trovare. Immagino che tu l'abbia visto. Sì, ma poi guarda, io sono felice del successo conclamato anche della critica di tutti quanti su un film di questo genere, perché ci riporta a quel clima di bellezza di cui io credo che noi abbiamo bisogno, perché al di là della musica, del ballo, questo è proprio un film bello, perché è arioso, perché è leggero, perché ti apre il cuore alla speranza, ti fa sognare. Credo che proprio globalmente abbiamo un po' bisogno di recuperare la dimensione del sogno, la dimensione del rosa, non inteso come stupideria, come gossip, rosa inteso come un colore di positività. Sì, ed è bello che venga da un regista poco più che trentenne, per cui è bello che noi pensiamo sempre ai millennial come gravati da mille cupezze, perché non gli stiamo lasciando il migliore dei mondi possibili. Però invece loro sono capaci di guardare oltre il presente, che può essere un po' grigio. Milli Carlucci, mentre ci salutiamo, volevo chiederti un trucco che tu adotti per tenerti in forma e perdere meno tempo. Due trucchi, dunque. Tenerti in forma possiamo vederlo leggendo Il meglio di te, i miei segreti per essere sempre in forma, che è un libro pubblicato da Spelling Puffer da poco. Ma i due segreti, uno per tenersi in forma, proprio quello, il meglio che tu hai trovato nella tua esperienza, e poi per non perdere tempo. Allora, per tenersi in forma io direi che al di là ovviamente del fatto di mangiare pulito, no? Di non mangiare schifezze, ma è proprio il fatto di usiamo le nostre gambe, noi spesso ci dimentichiamo che abbiamo due gambe, quindi anche solo farsi piani di casa a piedi, anche solo andare nei posti con le proprie gambe e non dover per qualunque cosa usare la macchina, già questo ti aiuta a stare in forma, non ti immagini quanto risvegli il metabolismo. E quindi questo secondo me è un po' il cardine. Camminare tanto. Camminare, ma anche, che ti posso dire, siete alla scrivania, alzatevi e continuate a leggere i fogli da in piedi, che è già una situazione diversa rispetto a quella seduta. Fate come si fa in aeroplano, no? Quei movimenti di spalle, di caviglie, di cose che tengono il corpo vivo, se no noi siamo delle specie di blob accasciati su una poltrona tutto il giorno, è dura essere così, E il secondo, scusa, che mi dicevi? Per non perdere tempo, ecco, questo è la mia ossessione, perché non avendo appunto tanto tempo da perdere, io cerco di incastrare due o tre cose insieme, sono piena di fogliettini, di appunti, di cose che devo delegare, ti fai un sacco di liste, sei una donna con tante liste. Sono la donna con le liste, infatti. E allora il suggerimento di Milly Carlucci è farsi le liste, io ci provo a ogni inizio di settimana, ma non sempre, come dire, mi ricordo di guardarle, questo è il problema. Questo pure per me, però intanto la buona intenzione c'è, partiamo con la lista, poi dopo alle volte mi dimentico anche dove sta la lista. Ma qualcosa però succederà. Allora, in bocca al lupo, ballando con le stelle, Milly Carlucci, grazie per essere stata con noi a Nessuno è Perfetto. Ma grazie a tutti voi. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati alla terza parte di Nessuna è perfetta. Allora, il nostro ascoltatore Giulio Torre sostiene che quando fa la fila negli uffici pubblici, cita banche, cita le poste, cita municipi, eccetera, soprattutto nel Lazio e in Campania, dice lui, si accorge che le impiegate donne perdono un sacco di tempo in chiacchiere tra loro o anche con la clientela, talché da loro nelle loro file si perde più tempo. Sarà vero? Sarà falso? Noi lo chiediamo a due autorevolissimi esperti di questa domenica, la presidente di Poste Italiane, Luisa Todini. Buona domenica, ben trovata. Salve, buona domenica, ben trovati a voi. E Sergio Rizzo, giornalista, scrittore notissimo dalla casta in poi, il suo ultimo libro La Repubblica dei Brocchi non risparmia ovviamente diciamo l'analisi di ritardi nella burocrazia e in vari settori. Buona domenica Sergio Rizzo, capo della cronaca di Roma del Corriere della Sera. Io chiederei subito a Luisa Todini, lei è presidente di Poste Italiane, che è la più grande azienda nazionale in termini di forza lavoro e la più femminile fin dalla prima ora. Che effetto le fa sentirsi dire dal nostro ascoltatore che le donne, le dipendenti che sono agli sportelli accumulano più ritardo perché si perdono in chiacchiere? Ma intanto guardi, avrei veramente piacere di parlare con il signor Giulio. Gliel'avevamo proposto, ma non ha, dice che è timido, non ha voluto, va bene, adesso proverò a cercarlo, ma mi metterò davanti all'ufficio postale dello frequentato, che intanto ringrazio per frequentarlo. Allora, mi viene un po' da sorridere, ma ovviamente ogni cosa la si deve prendere seriamente, non seriosamente, ma seriamente. E allora vediamo, come è stato detto, Poste ha 155 anni, nasce nel 1862 e la prima donna a lavorare in Poste del 1865. Ad oggi noi siamo oltre il 53%. Perché dico questo? Perché se l'azienda è evoluta, è diventata grande, oggi è la più grande azienda in termini di forza lavoro, 30 miliardi di fatturato, un'ottima quotazione lo scorso anno, forse sarà anche dovuto al buon lavoro delle donne, anzi soprattutto direi al mix di genere. Secondo me il modello vero di Poste è che il mix di genere, quindi uomini e donne insieme che continuano nel tempo, danno veramente degli ottimi risultati. Ora veniamo al punto, non so se il signor Giulio ha monitorato. Sì, ha monitorato e lui sostiene che c'è un 30% di ritardo in più diciamo tra le file in cui ci sono impiegate donne e quelle in cui ci sono impiegati uomini. Quindi l'avrebbe monitorato in sì. maniera, diciamo così, scientifica, per cui adesso io, il cliente per me ha sempre ragione, quindi sicuramente il signor Giulio ha ragione, se c'è stata qualche motivazione bisognerà andare a individuare, ma io invece sono estremamente orgogliosa di dire che uomini e donne insieme negli uffici postali portano ad un'attenzione al cliente, quella che in inglese si chiama customer care, attenzione a quelle che sono le necessità, veramente molto virtuosa. E negli ultimi anni noi siamo riusciti, siccome si dice sempre che in Poste si fanno troppe file, mm-hmm. allora io vi do il dato: nel 2016 ogni consiglio di amministrazione noi monitoriamo i dati dei tagliacode. Allora il tempo medio di attesa nel 2016, quindi nel 2017 lo verificheremo a breve, è di soli 8,2 minuti. Ah. Quindi è di meno, è sceso del 30% rispetto al 2015. Questo è un dato molto scientifico, ovviamente facendo una media nazionale può darsi che il signor Giulio quel giorno sia stato, o quei giorni fosse un po' sfortunato con delle colleghe o dei colleghi che abbiano avuto qualche problema di ritardo dovuto non solo a cose personali ma magari a cose aziendali. Però il dato medio di attesa in Italia è di soli 8,2. In generale. E Sergio Rizzo, il nostro ascoltatore ha un'esperienza limitata, lui dice onestamente, a due regioni, la Campania e il Lazio. Sì. C'è una differenza, diciamo una differenza no. di atteggiamento nell'impiego pubblico in queste regioni rispetto ad altre? Non voglio attirarmi le ire dei laziali o dei campani, ma è quello che scrive il nostro ascoltatore. No, ma guarda, io ho la sensazione esattamente contraria, a dire la verità, perché perlomeno diciamo, l'ufficio postale che frequento io, che non è né nel Lazio né nella Campania, ma è diciamo in Toscana, è quasi il primo paese della Toscana dopo il Lazio, io ho la sensazione esattamente opposta, cioè che le donne sono più veloci e più produttive degli uomini. E non si perdono in chiacchiere? No, ti dico francamente, cioè, di solito si aspetta più di 8 minuti, ma non per le chiacchiere delle donne, perché c'è oggettivamente gli uffici postali dei paesi, sappiamo che sono poi, no, hanno dei ritmi di lavoro che sono diversi da quelli delle grandi città, però oggettivamente io non ho questa sensazione. D'altra parte ti posso riferire alla mia esperienza anche come diciamo capo della redazione di un giornale, e dove ci sono molte colleghe, donne, certo. Sì, molte colleghe, e ti posso testimoniare che diciamo, non c'è assolutamente diciamo, una differenza di produttività, semmai qualche volta diciamo, la bilancia prende di più dal lato delle donne che non da quello dei maschietti, ecco, questo va detto con estrema chiarezza, forse perché le donne si sentono un pochino più discriminate, e in effetti lo sono, cioè è come se ci fosse, come dire, un gap culturale, storico, psicologico da recuperare, quindi sono sempre più disponibili e più pronte dei loro colleghi maschi. Questa perlomeno è la mia esperienza, poi ecco, non so, io... magari Giulio. Vorrei capire una cosa, ed è la domanda che rivolgo a tutte e due. Presidente Todini, voi monitorate le file, la lunghezza delle file, eccetera, ma se c'è un ufficio postale o un'area in cui le file sono più lunghe che altrove, voi fate delle indagini per capire come mai? Sì, interveniamo chirurgicamente, come si suol dire. Io ricevo e riceviamo tutti noi del Consiglio di Amministrazione o gli uffici competenti e lettere, alcune lettere anche di congratulazioni, devo dire se vuole, ma le lettere di reclamo, perché è più facile e più normale scrivere per un reclamo, e ogni situazione viene monitorata puntualmente e si riesce a capire in quella maniera. Quindi il signor Giulio, se lui volesse scrivermi qual è l'ufficio esatto e preciso, io non è che vado a fare un'indagine da Sherlock Holmes, ma vado a verificare, a capire se c'è qualche problema per poter aiutare le colleghe, i colleghi e soprattutto i clienti. Detto questo, noi monitoriamo puntualmente anche la singola lettera in cui mi si dice che nell'ufficio postale c'è stato un fatto puntuale, noi l'andiamo a verificare, perché bisogna capire se è un problema strutturale, se è stato un problema momentaneo, se c'è stato un qui pro qua con il cliente, quindi se è un problema che deve, in ogni caso l'azienda se ne deve far carico, e io guarda, lo faccio personalmente dal mio ufficio ma con gli uffici competenti dell'azienda. per cui a noi fa, ecco, io dico sempre scrivetemi, perché ci è molto utile la segnalazione, assolutamente. La segnalazione è fondamentale, quindi se il signor Giulio ci vuole o mi vuole mandare direttamente un problema specifico che ha, che non riguarda soltanto, non riguarda soltanto le donne dietro lo sportello. Assolutamente. Poi, le donne, io intanto ringrazio Sergio Rizzo per aver detto delle belle cose sulle donne. Io continuo a pensare che è il mix uomo donna, no? che funziona al meglio, è da tutti i punti di vista, anche nel lavoro, o quantomeno la presenza di un gruppo di donne e di un gruppo di uomini che lavorano insieme, quindi la squadra mixata. E per cui lo ringrazio, però vorrei sottolineare quanto la nostra azienda faccia anche per far sì che le donne poi possano lavorare al meglio nell'azienda stessa. Noi siamo molto family friendly e molto women friendly da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista della clientela che dei nostri dipendenti, quindi questo secondo me è un bel modello di successo. Nel giornalismo è un po' più complicato, mi ricordo di aver passato appunto tante notti, si facevano le notti all'epoca, e quindi uscivo da casa al mattino e tornavo a luna di notte, non era propriamente un sistema di lavoro che fosse amichevole per chi aveva famiglia, ma forse andiamo in direzione del cambiamento anche nel giornalismo. Volevo chiederti, Sergio Rizzo, ma ora che il Consiglio dei Ministri ha approvato i decreti Madia bis, la tua percezione è che anche nella pubblica amministrazione si stia facendo sia entrato nella logica comune che chi sta a uno sportello deve essere a disposizione del pubblico e deve essere efficiente? Devo dire la verità, finora non è che ho percepito dei grandi cambiamenti. Beh, qui sono 3 anni di una rivoluzione nella pubblica amministrazione, ma questa rivoluzione non è che si percepisce ancora. Dopodiché io voglio capire con questi nuovi provvedimenti che cosa succederà. Mi pare di capire che qui c'è ancora una fortissima ipoteca sindacale. Quello è un po' il problema della pubblica amministrazione. Beh, però il licenziamento nel giro di 30 giorni, se uno viene beccato a timbrare il cartellino e andare a casa, è un segno, cioè confermato, succedeva anche prima, ma adesso dovrebbe essere acclarato che è così. Ma dico, speriamo che sia così, poi voglio vedere poi alla fine la traduzione in pratica di queste norme, perché leggere sulla carta d'accordo, ma poi bisogna vedere come funzionano. Ripeto, secondo me si percepisce ancora questa ipoteca sindacale, che è il problema più grosso poi della pubblica amministrazione. Io penso una cosa, dopodiché posso anche sbagliare, per carità, perché poi sai, le sensazioni individuali sono, ma io credo che finché non si arriverà all'equiparazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, ma l'equiparazione assoluta, non è che le cose cambieranno così radicalmente, perché ci sarà sempre poi alla fine il discorso che fa il lavoro pubblico avrà la spinta magari a sentirsi più tutelato che non chi fa il lavoro privato, e quindi avere meno responsabilità o avere meno disponibilità a essere responsabile. Luisa Todini, in chiusura, dice Sergio Rizzo, non ci sarà mai nella pubblica amministrazione la stessa attenzione al customer care, al cliente, se non c'è la sensazione di avere le stesse regole che vigono nel privato. Io sono d'accordo. È così? Sì, sono d'accordo. Adesso non voglio toccare i temi di privatizzazioni sì, privatizzazioni no, controllo dello Stato altro, insomma, perché sono temi di azionisti più politici, io non faccio questo, però non c'è dubbio che l'attenzione al cliente significa maggiori profitti e maggiore possibilità di reinvestire profitti per i clienti stessi e quindi per la cittadinanza. Ecco, se non c'è questa sensazione di essere governati come un'azienda privata, quindi con quella che si chiama compliance, trasparenza, pienezza da tutti i punti di vista, forse non si arriva a questo. Però io noto dei cambiamenti, noto dei cambiamenti importanti. Per esempio lo vedo in un'azienda come Poste, fortemente sindacalizzata, sì, ma con un sindacato molto illuminato, anche nei momenti più complicati, anche nei momenti di discussione. L'azienda di Poste, diciamo, sono 143.000 colleghi, 143.000 dipendenti, con circa 60-65%. E c'è un atteggiamento più moderno del sindacato rispetto ai problemi che vengono... Più moderno, poi guarda, me lo lasci dire, c'è anche una donna oggi a capo del sindacato della CISL, come c'è stata, come è al sindacato della CGIL, CISL perché Poste è più... Certo. Io insomma non ho problemi a dire che apprezzo molto anche l'atteggiamento di Anna Maria Furlan, non perché è donna, per carità, però perché insomma... sta conducendo delle battaglie, delle addirittura la CGIL ha anche, oltre a Susanna Camusso, ha anche una giovane che si sta affermando, che è la Sorrentino. In chiusura Sergio Rizzo, le sindacaliste donne sono più pragmatiche, perdono meno tempo in chiacchiere, qui contraddiciamo quello che dice il nostro ascoltatore rispetto invece alle donne degli sportelli. Qui c'è un problema di classe dirigente che riguarda anche il sindacato e non è soltanto una questione di donne. Io penso che questo paese sta attraversando un problema serio da questo punto di vista e purtroppo non mi pare che, diciamo, neanche ai vertici del sindacato oggi ci siano questi diciamo grandissimi geni della classe dirigente. Quindi è un problema che va visto, secondo me, indipendentemente dal genere. Cioè è un problema di formazione e di competenze, esatto, che riguarda, esatto, tutti. Ho, esatto, capito. Tutti. Grazie Sergio Rizzo, grazie. Capo della cronaca di Roma del Corriere della Sera, grazie alla Presidente di Poste. Posso dire di iscrivermi Viale Europa 190, scrivetemi le cose buone, quelle che non vanno e noi le risolveremo, non tutte, non subito, ma le risolveremo. Grazie. Grazie alla Presidente di Poste Italiane Luisa Todini, buona domenica, grazie. Arrivederci, buona domenica, grazie. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci l'ultima parte di Nessuna è perfetta, il programma di Radio 24 che, come sapete, si occupa di lavoro dal punto di vista delle donne. Questa settimana abbiamo avuto come filo conduttore di tutta la puntata la lettera che ci ha scritto il nostro ascoltatore Giulio Torre, il quale ha monitorato i tempi di attesa negli uffici pubblici, nelle poste, nelle banche, quando ci si trova di fronte a uno sportello con una impiegata donna e quando ci si trova con un impiegato uomo. E lui sostiene che nei due casi si perde più tempo con le impiegate donne di solito. E perché? Perché chiacchierano. Bene, che fare in questi casi? Abbiamo pensato di chiederlo alla nostra coach. Buona domenica, Carla Ciani. Buona domenica, Maria. Buona domenica a tutti. Le tre pillole che si possono indirizzare come consiglio a chi ha a che fare con il pubblico, quindi lavora a contatto col pubblico, negli sportelli, in banca o alle poste, ovunque, per non perdere tempo e avere un buon ritorno, la soddisfazione della clientela. La prima pillola deve attivare la consapevolezza che la capacità relazionale e la, come dire, la propensione naturale all'accoglienza, che sono del comportamento femminile, oggi rappresentano un elemento strategico per il business, un grande vantaggio anche occupazionale. Le donne hanno infatti più degli uomini, naturalmente, potremmo dire, la possibilità, la capacità di dare quel valore aggiunto alla relazione con il cliente. Cioè noi quando siamo clienti oggi, a parità di offerta, a parità di servizi, a parità di contenuti, vogliamo la cura, la dedizione, ed è questo che ci fa prediligere quel contesto piuttosto che l'altro ed apprezzarlo. E oggi anche nella pubblica amministrazione si richiede questa attenzione a questo tipo di bisogni e aspettative. Quindi, del cliente. Chiacchierare col cliente è diciamo, una coccola in più che la pubblica amministrazione dà. Però se poi invece si chiacchiera con la collega e si fanno allungare certo. le code, lì è diverso. Sì, sì, sì. Ecco. Quindi la cosa che la donna deve fare è sfruttare questa capacità naturale e distintiva, ma per arricchire la sua professionalità, quindi deve bilanciare la capacità relazionale con l'efficienza. Quindi è importante sì seguire il cliente o anche il collega nel suo bisogno di relazione, ma anche saperlo ricondurre agli obiettivi pratici e al rispetto delle esigenze di tutti, comprese. Ecco, sì? Seconda pillola, appunto. No? Diciamo che è già una pillolona questa, sì. Perché per finire questa prima pillola deve veramente porre l'attenzione la donna a quei momenti in cui le sue possono essere interpretate come chiacchiere e quindi un limite del femminile, anziché un modello di relazione che davvero integra un valore umano con il valore professionale. Quindi saper rinviare la chiacchiera sulla febbre del pupo a casa e invece concentrarsi, se serve, con un minuto in più di chiacchiera con la pensionata che all'ufficio delle poste ti racconta del suo di figlio, magari cinquantenne. Capisco sì, bene? Sì, capisce benissimo, e soprattutto non distribuire troppo la conversazione, perché diversamente quel punto allo sportello diventa un meeting point e non certo. diventa un luogo dove uno va, entra, fa delle cose, se ne va. Esattamente. Seconda pillola è la pillola sulla gestione del tempo, che come sappiamo è per tutti la risorsa più preziosa e più scarsa, e quindi dobbiamo decidere con grande consapevolezza quanto questa risorsa siamo in grado di investirla bene per noi e per l'azienda. Cioè alla fine della giornata dovremmo capire quanto tempo dedicato sia stato un costo oppure un investimento. Cioè può accadere che, avendo avuto il bisogno o spesso anche il piacere di dilungarci nei colloqui, ci troviamo poi a rincorrere le cose non fatte, o peggio ancora a dare, come dire, un'accelerazione alle relazioni che ci porta ad essere dure e sintetiche con chi poi non se lo merita. Perché devi recuperare il tempo. Terza pillola, perché il tempo, è anche per noi quasi finito. La terza pillola riguarda anche il supporto che l'azienda può dare, e in questo senso la terza pillola è per rafforzare la capacità di visione complessiva dell'ambiente circostante quando si lavora con un pubblico che richiede un po' di competenze, no? Quando ci interfacciamo con gli altri, e in quel contesto dobbiamo saper leggere i bisogni nostri e quelli degli altri. Cioè, in sintesi, se abbiamo di fronte una persona insicura, quella persona ha bisogno di sintesi, di precisione, e magari dilungarci potrebbe aumentare la sua insicurezza. E questo però è un tema, no, che dovrebbe essere anche di formazione. Di formazione. Cioè, come gli impiegati vanno formati a riconoscere la differenza tra un cliente e l'altro. Certo, gli aspetti comportamentali dell'altro si devono interfacciare con gli obiettivi aziendali, con il modello e lo stile aziendale. Se abbiamo di fronte una persona che ha bisogno di prestigio e di stima, potrebbe viceversa farci sentire insicure e allora indurci a lunghe argomentazioni. E poi ci sono i mangiatempo, Maria, certo. I mangiatempo patentati, cioè coloro che in modo decisamente strategico decidono di utilizzarci come partner per le loro inefficienze o per la scarsa motivazione al lavoro, o perché dispongono di più tempo. Ma questo dalla parte di chi sta dietro lo sportello o di chi sta davanti e fa la coda? Tutti e due? Entrambe. E quindi direi che vanno riconosciuti, e allora si cambia sportello magari. Certamente, sì. E dobbiamo allenarci ad adottare dei modelli di comunicazione coerenti, perché sempre e comunque è una grande opportunità di crescita personale e professionale stare in un contesto che può farci esprimere, può far esprimere i nostri contenuti in una relazione diretta con gli altri. Grazie alla nostra Carla Ciani, la coach di questa domenica, e grazie a lei a te, e a voi. Tutti. Buona domenica.